Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori. Dietro la notizia. La notizia di oggi è questa, diciamo, accordo o preaccordo sulla settimana corta. Le imprese dicono sì alla settimana corta, ma con altre misure, titolo Il Sole 24 Ore, su questa ipotesi, che peraltro è già praticata, di suddividere il poco lavoro che c'è, data la crisi economica, data la cassa integrazione che in molte imprese è stata attuata e sta per essere attuata. Ecco, date queste difficoltà, ecco, dividere il poco lavoro che c'è tra tutti i lavoratori, evitare i licenziamenti, lavorare un po' meno, ma lavorare tutti, secondo uno slogan che anche questo non è nuovo. Ne parliamo con il professor Carlo Della Ringa. Buongiorno professore. Buongiorno a voi tutti. Carlo Della Ringa è docente di economia all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Ecco, di fronte a questa ipotesi, un'ipotesi, dicevo già, che non è nuova, era già stata discussa in passato, poi era passata un po' in secondo piano, adesso torna fortemente di attualità perché la crisi economica sta colpendo soprattutto le grandi imprese. Pensiamo che la Fiat ha messo in cassa integrazione tutti i suoi lavoratori per un mese, per 4 settimane. Ecco, questa crisi economica porta di attualità questa misura, cioè la possibilità di dividere il poco lavoro che c'è tra gli stessi lavoratori e quindi evitare i licenziamenti. Esistono già i contratti di solidarietà che già in passato erano stati attuati, che avevano più o meno la stessa finalità, mantenevano il posto di lavoro a tutte le persone, a tutti i lavoratori, a tutti gli occupati, in attesa appunto che la ripresa economica garantisse che avessero anche le stesse possibilità di adempiere allo stesso orario di lavoro. Ma ecco, perché in questa fase, professor Della Ringa, si torna a parlare di questa ipotesi così in maniera così urgente, così appropriata? Professor Della Ringa. Perché la crisi sta investendo il mercato del lavoro e si comincia così in genere, con la cassa integrazione che poi dopo porta i licenziamenti. E quindi si parla di questo strumento che, come ha detto, non è nuovo. Noi abbiamo i contratti di solidarietà che in qualche misura possono servire allo scopo. Ecco, però vorrei fare una precisazione innanzitutto. La notizia di oggi è che una proposta del governo viene accettata dalla CGIL. Non era mai successo negli ultimi mesi e questo va messo in evidenza perché è un aspetto di un possibile intervento su cui si può aprire uno spiraglio di collaborazione. Certamente questo strumento non va enfatizzato più di tanto perché rappresenterà uno dei possibili strumenti di intervento. Infatti questo si differenzia sia dal vecchio slogan lavorare meno, lavorare tutti. Quello slogan diceva ridurre l'orario di lavoro per tutti indistintamente. No, qui si parla di esperienze aziendali, di accordi aziendali. Laddove serve si può mettere in pratica questo strumento. Poi non è l'unico, c'è anche la cassa integrazione. Allora bisogna dire in che cosa possono distinguersi i contratti di solidarietà dalla cassa integrazione. I contratti di solidarietà si avvicinano proprio a quello che hanno fatto i tedeschi, cioè nell'ambito di un'impresa si riduce l'orario in modo generalizzato. Potrebbe voler dire settimana corta, ma anche mese corto, anno corto, ma per tutti. Invece la cassa integrazione è uno strumento più flessibile per le aziende, perché può essere utilizzato per ridurre l'attività laddove, in quei comparti, per quelle categorie di lavoratori per i quali si registra una diminuzione di attività. Ecco perché le imprese stanno dicendo sì, va bene settimana corta, ma uno dei possibili interventi, ricordiamoci poi che le esigenze aziendali possono essere anche di tipo diverso. Certo, anche perché c'è un'alta professionalità all'interno delle imprese, non sempre tutti i lavoratori, anzi molto spesso tutti i lavoratori non sono fungibili l'un l'altro. C'è anche un altro aspetto in questa fase importante, ecco, sottolineo poi certamente l'aspetto politico di questa non certo intesa ma apertura della CGIL, ma l'aspetto dei lavoratori cosiddetti precari, che sono molto meno tutelati dalla cassa integrazione per esempio, e che alla scadenza del loro contratto a tempo determinato possono non vedere rinnovato questo contratto. Allora, come utilizzare uno strumento di questo tipo anche per i lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato e che quindi sono maggiormente garantiti? Professor Della Ringa. Ecco, un'altra osservazione mi lasci fare. Fino a qualche mese fa si combatteva il lavoro temporaneo, cosiddetto precario. Adesso siamo passati a una situazione in cui bisogna difenderlo. Cioè bisogna sperare che una volta scaduto il contratto temporaneo venga rinnovato o che il lavoratore ne trovi un altro di lo stesso tipo perlomeno. Vede come siamo passati da una logica a una logica quasi opposta, che è anche quella giusta. Quindi secondo me lo strumento principale, che è quello dei servizi per l'impiego o gli accordi sul territorio che permettono a questa gente di rinnovare o nella stessa impresa o in un'altra impresa il lavoro, questo è fondamentale, e eventualmente anche il sostegno del reddito. Durante il loro contratto a tempo determinato loro hanno diritto a finire il contratto, però ha anche diritto l'impresa di eventualmente ridurre la prestazione e l'orario. Questo non era mai tanto successo in passato, perché il lavoro temporaneo è una novità di questi ultimi 10 anni e crisi economiche e occupazionali in questi ultimi 10 anni non ci sono state. Quindi si tratta, giustamente dice, vediamo un attimo se questi contratti di solidarietà, riduzione di orario, possono coinvolgere anche il lavoro temporaneo. Si tratta di una novità che va affrontata. Ecco, indubbiamente questo richiederà anche un intervento di carattere economico da parte del governo. Infatti una delle richieste della CGIL mi sembra proprio quella di aumentare i contributi pubblici per il sostegno dell'occupazione. Fino ad ora la cassa integrazione, professor Della Ringa, era in pratica pagata dagli stessi lavoratori e dalle imprese e quindi non richiedeva degli interventi esterni del governo. Forse in questa fase un intervento anche finanziario da parte dello Stato sarebbe indispensabile. Cioè anche lasciando le norme come sono adesso, già l'utilizzo maggiore degli strumenti attuali, con le leggi attuali, comporteranno una richiesta maggiore di interventi, quindi è opportuno che il governo su questo, diciamo così, si renda conto che deve trovare più risorse. Se poi addirittura la platea di coloro che hanno diritti verrà aumentata, ha ancora più risorse. Devo dire che per i contratti di solidarietà si possono utilizzare le risorse dalla cassa integrazione laddove la cassa integrazione si applica in quelle imprese che adottano i contratti di solidarietà, però si possono fare contratti di solidarietà anche nelle imprese in cui non si applicherebbe la cassa integrazione, e lì occorrono risorse aggiuntive, perché è previsto che almeno il 50, se non il 60% della retribuzione delle ore non lavorate sia a carico dello Stato, e poi tutti i contributi figurativi per la pensione e quant'altro. Certo, oltre alle risorse che sarebbero necessarie per avviare anche quella formazione necessaria per dare degli ulteriori sbocchi appunto al lavoro, dove invece il lavoro verrebbe a cessare per le crisi aziendali. Anche la formazione è un punto, mi pare, centrale da sottolineare. Lascerei la parola a un ascoltatore, Cesare da Latina. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, una dica. Domanda. La integrazione comunque la paghiamo sempre noi, lo Stato la paghiamo sempre noi, ma altre ipotesi non potrebbe essere, invece di utilizzare i soldi della cassa integrazione, ridurre i contributi che si paga, le imprese pagano sui lavoratori, oppure addirittura ridurre l'IVA sui prodotti, che al 20% mi sembra un po' assurda. Ecco, la ringrazio. Sì, certamente ridurre le tasse è sempre una richiesta che può nascere come una possibilità, diciamo così, molto attraente. E chiaramente lo Stato ha anche bisogno di risorse. Abbiamo appena parlato della necessità di spendere delle risorse per garantire questi contratti, per garantire la formazione, riducendo le imposte, riducendo l'IVA, per esempio, allo Stato verrebbero a mancare delle risorse. Quindi, indubbiamente, la politica fiscale è una politica che può essere usata, deve essere usata in certi casi, ma non dimentichiamo comunque che lo Stato ha anche le sue esigenze proprio di redistribuzione di queste risorse attraverso appunto il prelievo fiscale che poi va ai ceti meno favorevoli con la redistribuzione. Però sul fronte dei contributi, professor Della Ringa, forse un intervento che possa agevolare le imprese nell'attuare questi contratti potrebbe essere possibile? No, ma è previsto anche per la cassa integrazione straordinaria, anche per i contratti di solidarietà, c'è una riduzione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro. E su questo vorrei dire che il maggior impegno del governo non c'è solo per i contratti di solidarietà a quelle imprese che non possono godere di cassa integrazione straordinaria, ma per la stessa cassa integrazione straordinaria, se l'uso sarà massiccio e lo Stato dovrà metterci risorse sue. perché si parla di crisi di settore, crisi aziendale, e poi c'è la cassa integrazione in deroga, cioè per tutte quelle imprese che attualmente non sono previste per l'uso di questa cassa integrazione. Quindi tutti questi sono interventi che dovremmo pagare noi, quindi non possiamo pensare che siano stati già pagati. Quindi un grosso intervento ci sarà. D'altra parte, vede, qui quando si parla di fiducia delle famiglie e della gente, il rischio del crollo della fiducia dipende dalla prospettiva di perdere il posto di lavoro. Quindi se si vuole mantenere la fiducia nei limiti del possibile, bisogna dire alla gente: guardate che per quanto riguarda il posto di lavoro noi faremo il possibile. Certamente. Ecco, c'è una domanda che ci viene rivolta attraverso un SMS, una domanda difficile, gliela giro subito, professor Della Riga. Per una piccola, anzi piccolissima impresa, com'è possibile accedere a una soluzione come appunto la settimana corta, dividendo i lavori tra i pochissimi lavoratori che ci sono? È possibile pensare ad allargare questi contratti di solidarietà a gruppi di imprese? E questo è il punto dolente. Sotto i 15 dipendenti, per queste imprese attualmente gli interventi sono molto limitati. Se il governo dice vogliamo anche intervenire a favore di queste imprese, di questi lavoratori, la platea si allarga enormemente. Un esempio: negli ultimi 10 anni, dei 3 milioni di posti di lavoro, il 90% sono stati fatti da queste imprese. Quindi se queste imprese liberano tutta questa manodopera, dove va? Chi la sostiene? Sarebbe anche grave ridurre l'occupazione e perdere tutta l'eredità del passato, però in una certa misura bisogna farsi carico anche di queste piccole imprese. Anche perché queste piccole imprese non sono una cosa marginale, ma sono l'asse portante dell'economia italiana. La maggior parte dell'occupazione, tra l'80 e il 90% dell'occupazione in Italia, è proprio nelle piccole imprese, e quindi ecco, sono queste piccole imprese che dovrebbero avere e sollecitare una maggiore attenzione. Ecco, c'è anche il fatto che il sindacato nelle piccole imprese forse è meno presente, e quindi sono più complessi i rapporti di lavoro in queste imprese, dove il rapporto di lavoro è molto più fiduciario tra imprenditore e dipendente, ma in cui anche per questo esiste una voglia, una volontà di grandissima parte degli imprenditori di tenere legati i propri lavoratori alla propria impresa, perché senza appunto questa forza del lavoro la stessa impresa non esisterebbe. Professor Della Ringa. Guardi, non solo presenza dei sindacati, ma allarme sociale. Ora, 50.000 della Fiat fanno allarme sociale e vanno sulla prima pagina dei giornali, ma 150.000 lavoratori di piccole imprese, una per una, non fanno allarme sociale. Però noi, governo, Stato, opinione pubblica, dobbiamo farci carico, cioè non possiamo insistere su questa divisione, segmentazione del mercato, tutti un pochettino hanno diritto a un sostegno. Detto questo, comunque, ecco, io vorrei fare anche questa osservazione: il nostro sistema produttivo deve approfittare anche di questo periodo di crisi per ristrutturarsi, riorganizzarsi, e questo può voler dire anche mobilità, da impresa a impresa, da settore a settore, perché noi tutti i paesi usciranno da questa crisi rafforzati, più competitivi. Noi non possiamo bloccare nemmeno tutto il mercato del lavoro così com'è in questo momento, non possiamo permetterci questo, quindi qualche forma di flessibilità esterna dovrà essere garantita. È lì che dovranno venire a soccorso i servizi per l'impiego, quelli che dovrebbero favorire la mobilità, e questo purtroppo è un altro punto dolente della nostra burocrazia. Grazie, ne parleremo alla ripresa. Tra pochi minuti lascio lo spazio alle notizie per il traffico. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a quest'ultima parte di Dietro la Notizia. Stiamo parlando di occupazione, di mercato del lavoro, dell'ipotesi dei contratti di solidarietà, di estendere questi contratti di solidarietà all'intero universo del lavoro, in modo da lavorare meno, lavorare tutti in questa fase di crisi. Ne parliamo con Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano. E abbiamo un ascoltatore in linea, anzi un'ascoltatrice, Elisa da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno direttore. Ascolti, io volevo sapere, proprio per le piccole e medie imprese, ma a livello di costi, costa di più, o meglio, pesa di più, la cassa integrazione oppure la settimana corta? Grazie per la domanda. Indubbiamente la settimana corta è una forma di cassa integrazione che, invece di lasciare il lavoratore a casa, diciamo, per tutto il periodo di cassa integrazione, lo lascia a casa solo per uno o due giorni, però dipende poi dall'estensione di questo tipo di cassa integrazione, appunto, o di sospensione dal lavoro. Ma sentiamo l'esperto, professor Carlo Della Ringa. Professore. La differenza è nella flessibilità dello strumento, non tanto nei costi. La flessibilità è questo, che la settimana corta è generalizzata uno strumento piuttosto rigido che può andare bene anche quando un'impresa deve ridurre la propria attività in tutti i suoi reparti e per tutti i suoi lavoratori nello stesso modo. La cassa integrazione permette invece di diversificare e quindi rispondere a esigenze differenziate di una grossa azienda, per esempio, che non è che debba ridurre l'attività di tutti. Per quanto riguarda i costi, diciamo, la cassa integrazione certamente garantisce un 80-90% della retribuzione, quindi è piuttosto generosa. I contratti di solidarietà, così come sono previsti oggi, prevedono un po' meno. Però, per esempio, i contratti di solidarietà hanno un vantaggio rispetto alla cassa integrazione. La cassa integrazione c'ha un massimale, cioè non più, non so, 900.000 euro. Invece i contratti di solidarietà, pur avendo una percentuale minore, però se applicato uno stipendio molto elevato può anche andare oltre quel massimale. Mediamente però direi che costano meno i contratti di solidarietà di per sé, però tenendo presente che i contratti di solidarietà potrebbero allargarsi a una platea di beneficiari oltre, in aggiunta a quelli della cassa, quindi per la cassa dello Stato sono un costo aggiuntivo. C'è il fatto, professore Della Ringa, che in Italia, per esempio, l'esperienza del part-time non è stata un'esperienza particolarmente fortunata, nel senso che non sono stati contratti che hanno avuto un grande seguito, perché in fondo per le imprese poi il costo, diciamo, orario del lavoratore part-time era superiore del costo orario di un lavoratore a tempo pieno. Non c'è il rischio con questi tipi di contratti di lasciare appunto che il costo del lavoro in questa fase in cui la competitività è certamente un fattore importante, il costo del lavoro resti alto e non possa diventare ancora più alto se si tratta di dividere questo lavoro su più persone? Sì, questo fa parte della rigidità, diciamo così, del lavorare meno tutti, e quindi può aumentare i costi fissi per l'impresa. Mentre invece magari mettere gruppi di lavoratori a zero ore, cosa possibile, ma che i sindacati non gradiscono, perché sembrerebbero un'anticamera al licenziamento, talvolta per l'impresa è meglio questa differenziazione, può ridurre i costi. Quindi dal punto di vista dell'impresa posso capire come guardino questa esperienza tedesca, sì, con qualche favore ma anche con qualche prudenza, e in effetti io penso che l'utilizzo di questo strumento, la riduzione generalizzata, possa andare bene in certe situazioni, ma in altre no. Quindi anche lì non facciamo il solito, diciamo così, pensare che c'è uno strumento ideale che varrà bene per tutte le soluzioni perché l'hanno fatto i tedeschi. Ecco, può darsi che in certe situazioni possa andare bene, però in altre, tra l'altro gli strumenti possono essere anche combinati fra loro, e nulla vieta che si possa pensare anche in questa direzione. Certamente però gli strumenti ce li abbiamo, ecco, non è che dobbiamo imparare nulla dagli altri, se non il fatto che i tedeschi ci hanno detto che intervenire in questo modo può risolvere e soprattutto perché è gradito molto ai forti sindacati tedeschi. Ecco, non dimentichiamo che in Germania i sindacati sono particolarmente molto forti. Ma è anche in Italia i sindacati peraltro sono forti. Ecco, quello volevo tornare, lo fa anche un ascoltatore attraverso un messaggio SMS, ma lei ha parlato proprio all'inizio che il vero fatto nuovo di questa discussione aperta è che la CGIL ha dato il suo gradimento, la sua possibilità di discussione su una proposta del governo dopo una lunga serie di no. Ma siamo veramente una svolta, oppure anche il fatto che all'interno della sinistra, all'interno del Partito Democratico ci siano molte cautele, diciamo così, di fronte a questa proposta, proprio per non dare l'impressione di dover di aprire una fase nuova della politica, di una fase in cui c'è un dialogo tra maggioranza e opposizione. Però, ecco, parlando sul fronte politico più generale, forse la situazione economica, la situazione complessiva dell'economia richiederebbe proprio una intesa più larga, un'intesa costruttiva, un'intesa che guardi al futuro, in cui le vecchie polemiche venissero un po' lasciate da parte e si possa dire adesso attuiamo delle misure che diano appunto, con questa garanzia del lavoro il più possibile estesa, anche quel ritorno alla fiducia che non basta predicare ma bisogna anche attuare concretamente. E quindi una svolta politica in questo senso sarebbe, professor Della Ringa, forse auspicabile. Per il bene del Paese Senz'altro, io penso, perché uniti si riesce a fronteggiare meglio i pericoli incombenti. Ma io penso, sono fra quelli che ritengono che anche per quando gli incentivi, gli stimoli delle parti contrapposte vadano in quella direzione, interessa un governo assumersi tutta la responsabilità di una crisi così grave? No. Interessa all'opposizione, anche sindacale, rimanere fuori dalla gestione di un momento così importante della nostra vita sociale? No. Quindi io sono fra quelli ottimisti, io penso che naturalmente le parti abbiano interesse a trovare un accordo. Guardi la CGIL, può il primo sindacato italiano lasciare gestire milioni di posti di lavoro, perché questi saranno quelli coinvolti in un modo o nell'altro dalla crisi, da altri, e di non essere presente a difendere i lavoratori dal loro punto di vista nel momento del bisogno? Io penso proprio di no. Quindi sono fra quelli che ritengono che per forza bisogna andare in quella direzione, che è quella anche auspicabile. La ringrazio, sentirei Silvano da Genova, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo dare la mia testimonianza. Durante la crisi del petrolio in Svizzera ci hanno lasciato un giorno a casa. Allora la direzione ci ha dato la possibilità di riqualificarsi e io ho preso al volo questa possibilità e me ne sono giovato in seguito, perché poi la crisi è finita, non è durata chissà quanto. Grazie, quindi una giornata alla settimana ovviamente per la riqualificazione, per poi essere più pronti per nuovi tipi di lavoro. Sentirei anche Aldo da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per questa trasmissione così utile. Volevo segnalare semplicemente che in qualità di piccolo imprenditore che ha 14 dipendenti distribuzione commerciale, che una quota dei contributi versati all'INPS va a coprire i costi della cassa integrazione, di cui peraltro i nostri collaboratori non usufruiscono. Mi sembrerebbe utile, in una circostanza di carattere generale dolente come l'attuale, che chi di dovere intervenisse a favore di queste piccole realtà che sono però, come avete detto, il nervo dell'economia italiana, nella quale l'imprenditore è esposto con tutto il personale capitale verso le banche per garantire il funzionamento, quindi c'è una funzione sociale oltre che economica. Grazie. Grazie a lei di questa testimonianza, anche di questo appello. Mi sembra, professore della Liga, ne avevamo parlato, il problema è appunto anche quello di estendere un po' a tutti i lavoratori, anche delle piccole e piccolissime imprese, queste possibilità di settimana corta o di divisione del lavoro e comunque di garanzia del posto del lavoro. Professor Della Ringa, per concludere. Si tratta di due interventi esemplari. Quest'ultimo, ritorno su un punto, le piccole imprese sono quelle che su cui è concentrata la nostra occupazione, che hanno creato milioni di posti di lavoro. Le abbandoniamo adesso? No, dobbiamo individuare formule nuove per estendere questi strumenti per fronteggiare la crisi occupazionale anche a loro, anche quindi questi contratti di solidarietà e cassa integrazione. Uno. L'altro, quello che è successo in Svizzera, è il mondo ideale. Noi dobbiamo prepararci a utilizzare il tempo disponibile per uscire dalla crisi più competitivi. Purtroppo i nostri servizi dell'impiego, anche questi, avrebbero bisogno di un riadattamento urgente e veloce al periodo di crisi. Sono loro che devono darsi da fare sul territorio, insieme anche con le parti sociali, per sfruttare questi momenti, per riqualificare i lavoratori e anche trovare sistemazioni diverse laddove, put a caso, per disgrazia, ci fossero veramente dopo delle liste di mobilità e degli esuberi. Gestire la transizione nel mercato del lavoro e approfittare dei momenti come questi per aumentare il grado di qualificazione è doveroso, altrettanto doveroso come quello di sostenere il reddito nei momenti del bisogno. Grazie mille professor Della Ringa, grazie per questo intervento e grazie anche appunto per questa prospettiva. La possibilità di attuare misure che aiutino il lavoro c'è, bisogna avere la forza e il coraggio di attuarle, pensando che sia possibile, anzi che da questa crisi si uscirà con più fiducia da parte di tutti. Ringrazio Carlo Della Ringa, docente di economia politica alla Cattolica, Carmelo Lauricelli in regia. Quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.